5 e. Ascolta e rispondi. Quante lettere avete ricevuto? Ne abbiamo ricevuta una. Quante cartoline avete scritto? Ne abbiamo scritta una. Quante schede telefoniche avete usato? Ne abbiamo usata una. Quante composizioni avete fotocopiato? Ne abbiamo fotocopiata una. Quanti fiori avete colto? Ne abbiamo colto uno. Quanti biglietti avete comprato? Ne abbiamo comprato uno. Quanti sbagli avete fatto? Ne abbiamo fatto uno. Quanti regali avete ricevuto? Ne abbiamo ricevuto uno.